in primo piano. Buona giornata a tutti, vediamo le prime pagine dei giornali. Ovviamente molto spazio viene dato agli esiti dell'incontro che c'è stato ieri tra il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Il Sole 24 Ore dedica il suo titolo più importante agli esiti di questo incontro. PMI, piccole e medie imprese, crediti più garantiti. L'incontro tra Berlusconi e la Presidente di Confindustria Marcegaglia, il fondo salirà a 1,3 miliardi. E Draghi dice accelerare i pagamenti dello Stato aiuterebbe le imprese. Sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo l'intervista al ministro Sacconi realizzata da Marco Rogari, l'intervista di cui avete sentito parlare anche nel giornale radio, Sacconi dice entro marzo il libro bianco sul welfare nel nome di Biagi. Il libro bianco sul welfare sarà presentato dal governo entro marzo, si snoderà lungo il solco tracciato dalla legge Biagi, ad affermare il ministro Maurizio Sacconi che, ripercorrendo l'opera di Marco Biagi a 7 anni dalla sua tragica scomparsa, sottolinea la legge che porta il nome del professore è un giacimento inesauribile di opportunità. Domani, come avete sentito, sono 7 anni dall'assassinio di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse. Sul Sole 24 Ore sempre una notizia che non trovate su altri giornali, in prima pagina a cura di Marco Valsania: il fisco degli Stati Uniti aiuta i truffati da Madoff e scoppia il caso Equità. Che cosa succede? Succede che il fisco statunitense propone degli sconti molto forti per chi avesse perso i suoi investimenti con il caso Madoff. Il fisco USA, spiega Valsania, corre in soccorso delle vittime di Bernard Madoff con una decisione destinata a sollevare malumori tra i tutori del principio di equità. L'Internal Revenue Service, in pratica è l'agenzia delle entrate americana, permetterà a chi è stato truffato dal finanziere di dedurre dalla dichiarazione dei redditi non solo il capitale perduto ma anche i guadagni non realizzati sull'investimento, una regalia straordinaria che prevede persino la possibilità di emendare le dichiarazioni dei redditi del 2008 già consegnate all'amministrazione tributaria. Valsania ricorda che la legge americana permette già alle vittime di truffe finanziarie di recuperare fiscalmente parte delle somme perdute, ma mai prima di ora si era arrivati a tanto. Vale la pena ricordare, come fa Valsania, che i truffati di Madoff sono prevalentemente banche, assicurazioni, fondi e fondazioni e potranno così dedurre fino al 95% del valore delle perdite. Ancora una segnalazione dalla prima pagina del Sole 24 Ore, una possibile buona notizia: riparte l'edilizia negli Stati Uniti e spinge Wall Street, che ha chiuso a più 3,2%. In febbraio i nuovi cantieri edili negli USA sono saliti del 22,2% mensile ed è il balzo più forte in 19 anni. L'aumento è il primo dopo 7 mesi di cali e ha ridato slancio al Wall Street. Come sapete, la crisi in cui ci troviamo ora è cominciata proprio dall'immobiliare, dai subprime, quindi per questo motivo, pur con tutte le cautele possibili e gli scongiuri che possiamo fare, la crescita dell'edilizia negli Stati Uniti sembra una buona, confortante notizia. Altri giornali, la stampa conferma questa maggiore importanza per l'esito dell'incontro tra Berlusconi e Marcegaglia, imprese via libera nuovi aiuti, e anche la stampa dà risalto alle parole del governatore Draghi: la crisi continuerà, no ad ingerenze politiche sulle banche. Grande foto centrale sulla prima pagina della stampa per le nuove regole, discutibili regole della Formula 1, e infatti la stampa decide, sotto una grande foto della Ferrari di Raikkonen, di riportare solo due parole: formula farsa. La Repubblica rovescia un po' l'approccio che abbiamo visto fin qui, perché dà il titolo a Draghi, al governatore: Draghi no a ingerenze sulle banche. Il governatore replica a Tremonti sui prefetti. Sapete che si è pensato a un coinvolgimento dei prefetti per verificare l'erogazione del credito da parte delle banche, però appunto Draghi dice no a ingerenze sulle banche, riferisce il titolo di Repubblica. Sì, bipartisan la mozione del Partito Democratico sul bilancio degli enti locali e dialogo sul federalismo, e poi dubbi di Napolitano sul piano casa. Il Presidente della Repubblica ha chiesto, e come vedremo più avanti proprio da Sole Sole 24 Ore avrebbe ottenuto una serie di modifiche, il governo avrebbe accolto i rilievi del Presidente della Repubblica per il piano casa. Marcegaglia, avremo soldi veri. Sempre dalla prima pagina di Repubblica l'annuncio dell'intervista ad Assad: mi fido di Obama, medierò con l'Iran. Il presidente siriano Bashar al-Assad che viene intervistato oggi da Repubblica. Sul secolo XIX troviamo un titolo di apertura che è un po' diverso, perché ci si riferisce al decreto legge sugli incentivi, quello con cui sono stati varati appunto gli incentivi auto. In questo momento è in discussione alle Camere per la sua definitiva conversione in legge. Avverte il secolo XIX: amianto e precari, bocciato il decreto. E Burlando dice si rischia il dramma e si appella a Fini, perché l'emendamento sulle pensioni all'amianto, che era contenuto, era previsto come inserimento in questo decreto, è stato bocciato. È un emendamento particolarmente sentito nella zona ligure, per questo il rilievo che il secolo XIX giornale di Genova dedica a questa vicenda parlamentare. E poi ancora, anche sul secolo XIX, Marcegaglia: dal governo 1,3 miliardi di fondi veri, piano casa, chiarimenti al Quirinale, il decreto slitta di una settimana. Napolitano ha chiesto al Premier di risolvere l'intreccio con le leggi già esistenti e con le competenze delle regioni. Il testo sarà corretto. Questo dal secolo XIX. Corriere della Sera, il titolo più importante sempre per l'accordo, l'intesa Berlusconi-Marcegaglia, nuovi fondi alle piccole imprese, questa è l'indicazione data da Berlusconi. E poi dell'incontro tra Napolitano e Berlusconi, più che sul piano casa, il Corriere della Sera riferisce dell'azione incisiva della Unione Europea contro la recessione. Nuovi fondi alle piccole imprese, il titolo grande, come vi dicevo, e poi sotto il titolo la Marcegaglia vede il Premier, ora ci sono soldi veri. E nella parte centrale, la prima pagina del Corriere della Sera, la vicenda della proposta di castrazione chimica per i violentatori. Benefici carcerari a chi accetta la castrazione chimica, proposta leghista, è scontro. La Lega ripropone la castrazione chimica ed è polemica con l'opposizione. Una segnalazione dalla prima pagina del Corriere della Sera su una vicenda di Bologna, accaduta al Tribunale di Bologna: fascicoli spariti, saltano 2.321 processi, sono stati dimenticati in un armadio e in questo momento c'è una lite tra Procura e Tribunale sulle responsabilità. Il Messaggero, anche per Il Messaggero, crisi, aiuti alle piccole imprese è il titolo principale. Draghi che dice no alle interferenze politiche e amministrative nel credito, sotto il titolo principale. Il Messaggero sceglie di puntare poi sulla cronaca con la vicenda della turista tedesca aggredita dai cani a Modica. I cani randagi colpiscono ancora, massacrata una turista tedesca. E poi sulla prima pagina del Messaggero una vicenda di cronaca e università: Roma 3 spranghe all'università, trovate negli armadietti anche catene e manifesti neonazisti. Il ritrovamento appunto di questo materiale viene segnalato dal quotidiano romano, essendo la vicenda appunto accaduta all'università di Roma 3. Foto centrale nella prima pagina del Messaggero per il viaggio del Papa. Delle varie dichiarazioni di Benedetto XVI si decide di dare spazio a questa: il Papa, cure gratis per i malati di AIDS. Sopra questo titolo, contro l'HIV, la dichiarazione appunto di Benedetto XVI, i preservativi non servono. Questo con una foto, l'annuncio del Messaggero sulla prima pagina per il viaggio del Papa. Il giorno sceglie di privilegiare, come spesso fa la cronaca, la vicenda dei cani randagi, cani killer, un incubo. Ci torneremo poi nel corso della mattinata, ci tornerà Alessandro Milan. E sempre nella prima pagina del Giorno viene dato risalto anche a questo blitz nel comune degli assenteisti, dove a Portici appunto, dove sono stati arrestati in 36. Il tempo di marcare il cartellino, riferisce il Giorno, e lasciavano gli uffici, sono stati incastrati da una telecamera collocata dagli investigatori all'ingresso del palazzo. Il ministro Brunetta commenta: politici e dirigenti locali hanno preferito non vedere. L'Avvenire dedica il suo titolo più importante al viaggio del Papa, il titolo dell'Avvenire è Ingiustizie, un cristiano non tace, il Papa in Camerun nessun silenzio su violenza e fame. Da ieri Benedetto XVI in Africa, AIDS tragedia che non si supera con i preservativi, questa è la citazione riportata da Avvenire. E poi ancora sulle recenti polemiche che ci sono state sulla solitudine del Papa, il mito della mia solitudine, ha detto Benedetto XVI e riferisce Avvenire, mi fa sorridere. Nella parte centrale, la prima pagina di Avvenire, gli aiuti alle piccole e medie imprese e anche gli interventi per l'edilizia, aiuti alle piccole e medie imprese e verso la vendita delle case popolari. Prevista la cessione di 1 milione di alloggi, spiega Avvenire, ma slitta ancora il piano casa. Draghi, no all'invasione della politica nelle banche. Il manifesto decide invece di dare risalto a un emendamento, una correzione che non c'è più, perché? Perché la Camera ha bocciato la proposta di abbassare a 350.000 euro il limite per la paga dei dirigenti pubblici, quindi il senso è niente tetto per gli stipendi dei manager e il titolo polemico del manifesto è Senza tetto, dove però la foto scelta è quella di una serie di manager in giacca e cravatta con telefonino. Su Libero la notizia di Portici è quella che del comune di Portici e degli arresti è quella che trova maggiore risalto, retata di fannulloni, 36 arresti, per la prima volta per i dipendenti comunali assenteisti scattano le manette e il sindaco di sinistra si dovrebbe vergognare e andarsene pure lui per dignità. Libero poi ridà ancora risalto al Veneto che minaccia la marcia su Roma per il federalismo mancato. Il Giornale, titolo in positivo per il Giornale, famiglie e imprese cambiano le tasse, in arrivo il quoziente familiare, chi ha più figli paga meno, spiega, e la revisione degli studi di settore. Qui riprende, come sapete, il titolo che era stato sul Sole 24 Ore di ieri, appunto la revisione degli studi di settore. Il caso, a centro pagina del Giornale, grande foto di Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, perché? Perché c'è un giornalista che accusa lo scrittore di plagio, così Saviano ha copiato Gomorra, questo viene segnalato da Il Giornale. L'Unità che invece dà risalto alla proposta della Lega sulla castrazione di Stato. Naturalmente per la Gazzetta dello Sport il titolo più importante è la rivoluzione in Formula 1, che è il primo titolo, ma a centro della prima pagina grande foto di Zlatan Ibrahimovic, sappiamo che Ibra ha il mal di pancia, è la risposta dell'Inter, ma glielo faremo passare così. Branca è certo di riuscire a trattenere lo svedese, pronto un piano di mercato per convincerlo. E Jimenez sbotta, a volte mi sento un fantasma. Torniamo a dare un'occhiata ai giornali oggi in edicola, ritorniamo su questa vicenda del campionato di Formula 1 su cui sono state decise proprio negli ultimi giorni le modifiche al regolamento. Riprendiamo dalla Gazzetta dello Sport, la Gazzetta dello Sport titola Rivoluzione in Formula 1, campione chi vincerà più gare, e Montezemolo furioso e deluso. La Gazzetta dello Sport dedica, oltre a due commenti, anche due pagine al suo interno a questi cambiamenti. Che cosa cambia? Viene riassunto in una serie di foto e brevi segnalazioni. Nel punteggio, naturalmente, lo avete sentito, l'iride agli attaccanti da quest'anno diventerà campione del mondo il pilota che vincerà più gare, quindi, come poi titolava anche Il Giornale sulla sua prima pagina, potrebbe essere che chi ha meno punti vince. Il sistema di punteggio resta però invariato, quindi ci sarà la solita attribuzione di punteggi per i primi posti. La classifica servirà a stabilire il titolo solo in caso di parità tra due o più piloti e servirà ad assegnare il titolo costruttori. Ci sono delle misure per i giovani piloti, perché il Consiglio Mondiale della Federazione dell'Automobilismo ha concesso 3 giorni di test che si potranno effettuare tra l'ultimo Gran Premio, si correrà il 1° novembre, e la fine dell'anno, il 31 dicembre. Serviranno a mettere sotto esame giovani piloti che non abbiano corso più di 2 Gran Premi. E poi benzina via i segreti, dopo le qualifiche sarà reso noto il peso di ciascuna vettura, quindi si potrà dedurre il quantitativo di benzina a bordo e i piloti poi saranno obbligati, questo è un dettaglio più di curiosità, a una sessione di autografi in uno spazio della corsia box. Tornano le gomme intermedie e infine dal 2010 chi vorrà potrà aderire al tetto delle spese che è stato fissato in circa 33 milioni di euro. In cambio si potranno usare motori non congelati e con regime di rotazione libero. Queste sono le maggiori modifiche. Vale la pena ricordare, lo fa la Gazzetta dello Sport, che se queste regole fossero state in vigore già l'anno scorso, il mondiale sarebbe andato a Felipe Massa e non, come sappiamo, a Hamilton per un punto all'ultimo Gran Premio. Torniamo sul Messaggero. Il Messaggero ieri presentava questa inchiesta sui fuoricorso all'università. C'è un ritorno su questa crescita di fuoricorso con delle dichiarazioni del ministro Gelmini. Anna Maria Sersale, che è l'autrice dell'inchiesta, annuncia a pagina 9: Gelmini, meno esami e più crediti contro il flop del 3+2. Nel mirino i corsi di laurea per pochi intimi che hanno favorito la moltiplicazione delle cattedre, la fotografia della crisi, in calo il numero delle matricole e 2 studenti su 10 non hanno sostenuto alcun esame. È in arrivo, appunto, riferisce il Messaggero di oggi, il provvedimento per ridurre i fuoricorso e frenare gli sprechi. E c'è un record italiano, 180.000 materie di insegnamento. Dal Messaggero andiamo al Giornale. Il Giornale segnala queste novità sulle imposte. Si tratta da una parte degli studi di settore. Degli studi di settore abbiamo già parlato commentando ieri, segnalando ieri i titoli del Sole 24 Ore. Naturalmente anche oggi sul Sole 24 Ore ci sono ulteriori servizi sui cambiamenti di studi di settore che sono previsti appunto per la fine del mese di marzo, i primi giorni di aprile. Ma più interessante notare invece questa ipotesi di quoziente familiare. Qui c'è un emendamento al disegno di legge sul federalismo fiscale che prevede che fra i criteri di delega per il federalismo fiscale ci sia anche l'individuazione di strumenti idonei a favorire appunto il quoziente familiare. Di cosa si tratta? Si tratta di un meccanismo di calcolo delle imposte che dovrebbe consentire una sorta di compensazione interna alla famiglia, così tenendo conto anche di chi ha dei coniugi dove uno dei due coniugi ha redditi più alti, l'altro redditi più bassi, e poter splittare, potersi compensare appunto le imposte dovute. Viene citata anche una simulazione del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore si è occupato in diverse occasioni dell'ipotesi di quoziente familiare. Bisogna però dire per correttezza che si tratta appunto di una proposta di emendamento al disegno di legge sul federalismo fiscale, quindi l'attuazione non è sicuramente per quest'anno, difficilmente per il 2010, è qualcosa che potremo vedere più avanti ancora. Allora, per questi ultimi 2 minuti direi che ci restano per la rassegna stampa, tornerei proprio sul Sole 24 Ore. Il piano casa, dicevamo, sta subendo probabilmente un rallentamento perché ha bisogno di un'ulteriore messa a punto, ne riferisce Valeria Uva a pagina 2 oggi. Ampliamento resta la licenza è il titolo. Napolitano frena sul piano casa, decreto più leggero e rinviato in attesa delle regioni. Ci sarà una deregulation soft, morbida. L'azzeramento del permesso di costruire avrà tempi lunghi, ma i sindaci potranno dire no all'autorizzazione soltanto in casi limitati. Prende sempre più corpo, scrive Valeria Uva, l'ipotesi di un rinvio alla settimana prossima del Consiglio dei Ministri che varerà il piano casa. Questo anche per ottenere un maggiore sostegno dalle regioni. Fino a ieri sera, infatti, la conferenza Stato-Regioni che dovrebbe esaminare il decreto non era stata ancora fissata. E poi in materia invece di immobili, la flessione nell'andamento delle case in Italia, case calano gli acquisti effettuati con mutui, servizio di Cristiano Dell'Oste, diminuzione più forte al nord, compravendite ai livelli del 2001. Segnalavamo prima questa ripresa, questo segnale di ripresa negli Stati Uniti, ovviamente questo è il dato di fine 2008 per l'Italia e rivela appunto una flessione del 26,8%. L'ultima segnalazione doverosa per l'intervista di Marco Rogari al ministro del welfare Maurizio Sacconi, dedicata appunto a Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse. La legge Biagi è un giacimento di idee, dice il titolo di questa intervista. Sacconi: la situazione non consente di toccare pensioni articolo 18, possibili solo manutenzioni. Annuncia il ministro in questa intervista, dove tra l'altro compaiono anche delle foto in cui si vede il primo gruppo di lavoro del 2001 con l'ex ministro del welfare Maroni e l'attuale ministro Sacconi e Marco Biagi, appunto, a un tavolo. Dice il ministro: la sede del mio ministero prenderà il nome del professore per riconoscere l'impegno di una vittima del terrorismo. E ancora, stiamo cercando anzitutto di attuare pienamente la legge Biagi. La legge Biagi è appunto un giacimento di idee.